versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo giovedì di inizio settembre, questo 4 di settembre, sono le 16.35, 30 secondi, siamo in diretta dagli studi Radio 24 qui di Milano. Avrete capito che insomma la giornata per chi si occupa di economia e finanza è tutta presa dalla valutazione e dagli effetti delle misure, non solo il taglio di tassi, ma le misure non convenzionali della BCE, ma su questo un po' di tempo in più per vedere come finiscono i mercati oggi, e poi anche più tardi nella trasmissione con Sebastiano troverete Barisone, troverete molti commenti, opinioni, tutte su questo, perché è il focus sui mercati economico-finanziari della giornata. Noi invece ci occupiamo oggi di un tema che in questa ripresa post-agostana ha avuto diciamo, una certa attenzione da parte dei media e che mi appassiona ovviamente, perché lo sapete se mi ascoltate da qualche tempo, inciso, continuate a mandare opinioni, vedete che sto iniziando a rispondere a tutti per richieste di temi e ospiti nella trasmissione, l'indirizzo, ripeto, è la versione di Oscar, @radio24.it, chiuso, inciso, ma siccome sapete che sono un appassionato di mercato, concorrenza, il privato rispetto allo Stato che si comporta male rispetto ai privati e così via, c'è esattamente una storia di impresa che sta attirando molta attenzione e molto dibattito anche acceso in questa ripresa post-agostana, ed è relativa a ciò che avviene alla società concorrente all'ex monopolista ferroviario nell'alta velocità. Stiamo parlando di NTV, cioè la società fondata nel 2006 innanzitutto da Luca di Montezemolo, avendo come soci Diego Della Valle, Gianni Punzo, Giuseppe Sciarrone, i Seragnoli, altri privati, e che poi all'interno della compagine ha come nocciolo duro forte, diciamo così, con un 20% Banca Intesa, che è anche titolare delle quote impegno e garanzia di tutti gli altri soci italiani fin dall'inizio, dalla costituzione di questa società. Nella società c'è anche poi con un 20% SNCF, cioè la società pubblica francese, l'equivalente di Ferrovie dello Stato pubblica in Francia. E la polemica è scattata perché? Perché lo avete visto forse con queste pagine a pagamento comprate da NTV e comparse tra ieri e l'altro ieri su tutta la stampa italiana, la società è molto dura nei confronti degli ostacoli che lo Stato avrebbe incessantemente posto all'esercizio della concorrenza nei confronti di Trenitalia. Stiamo parlando qui dell'alta velocità, quindi del settore commerciale più redditivo, no? Dell'offerta di servizi di trasporto ferroviario di Trenitalia, distinto dal trasporto pubblico locale e regionale. E il testo di questa protesta di NTV era molto duro perché? Perché metteva in fila una serie di argomenti che fin dall'inizio NTV ha sollevato via via polemicamente nel tempo contro lo Stato, cioè gli ostacoli regolatori alla libera concorrenza, che il ritardo per esempio dei diversi governi nel introdurre e nel varare l'autorità dei trasporti, che è avvenuto solo con questo governo, dopo tante promesse, il canone troppo elevato per l'accesso e l'esercizio nella sua offerta di servizi di NTV per utilizzare l'infrastruttura fissa, cioè i binari che appartengono poi al concorrente RFI, cioè che è la società di Ferrovie dello Stato che gestisce l'infrastruttura ferroviaria. E via via una serie di accuse che riguardano gli ostacoli alla concorrenza, che però sfociano in questo attacco durissimo finale per il taglio ai sussidi elettrici che a NTV erano concessi come a Ferrovie dello Stato, quindi come a Trenitalia, però in ragione del fatto che erano stati concessi alle Ferrovie dello Stato nel 1962-63, pensate, quando ci fu la nazionalizzazione elettrica, e allora anche gli impianti di generazione elettrica delle Ferrovie dello Stato che persistevano alla nazionalizzazione furono conferiti in Enel, e da allora per ammortizzare questi impianti nazionalizzati, cioè conferiti ad altri perché sempre società pubblica erano, venne garantito uno sconto sulla bolletta elettrica ogni anno alle Ferrovie dello Stato. Quando arrivò NTV, sia pur concorrente privato, lo sconto venne esteso anche a loro. Il taglio ai sussidi elettrici sia a Trenitalia che a NTV è comparso nel taglia energia predisposto dal ministro dello sviluppo Guidi, ne abbiamo già parlato in una puntata soprattutto incentrata sulle rinnovabili e il fotovoltaico, come sapete, ma NTV dice questa è la goccia che fa traboccare il vaso, queste le proteste di NTV. Dietro c'è anche una situazione però che anno dopo anno è da esaminare, perché in realtà la società ha accumulato negli ultimi due anni perdite per 156 milioni, ha un debito complessivo superiore ai 780 milioni e il capitale si è ridotto di un terzo nel solo primo trimestre di quest'anno. Le cose, in altre parole, non vanno bene, anche se ovviamente i passeggeri hanno avuto un bel incremento in questi anni, sono arrivati a 6,2 milioni, però c'è dietro un problema di bassissima redditività e quindi bisogna interrogarsi anche se poi il piano industriale sia stato ben fatto. Era sufficiente l'offerta dei treni per fare davvero la concorrenza a quelli di Trenitalia 1, 2? Non è che si contava sul fatto che c'era un margine troppo alto sulle tariffe e poi invece con la concorrenza anche Trenitalia le ha abbassate e quindi hanno guadagnato molto meno di quello che immaginassero? Davvero sono stati efficienti nell'Europa piano industriale e in molte spese che hanno fatto, nell'assunzione di tanti dipendenti amministrativi? Comunque, conclusione, siccome già dall'inizio dell'anno c'era un contratto di solidarietà e i giornali a quel punto hanno pubblicato pochi giorni fa anche la notizia di una possibile mobilità o licenziamento per 300 dipendenti su poco più di 1000, ecco che il dilemma è diventato, ma non è che qui i soci privati di NTV protestano contro lo Stato pensando che adesso lo Stato deve dargli una mano e salvarli? Ecco, questa domanda, lascio sullo sfondo le polemiche politiche di Gasparri, la risposta durissima dell'azienda a Gasparri, qui non ci interessano le polemiche né dire che chiuderanno o meno, io sono per la concorrenza, ma chiederci quanto sia giusta la protesta, sia regolatoria che per il taglio ai sussidi. Io sono per il taglio ai sussidi, quindi per me è sbagliato protestare per quello, soprattutto se sei un privato dovresti chiedere meno sussidi anche a Ferrovie dello Stato, che se ne becca per più di 5 miliardi di euro l'anno, e quindi a quel punto dire figuratevi se io ho diritto a uno sconto elettrico quando non ho conferito nessun impianto di generazione elettrica, perché quello è il titolo in base al quale li avevano. Però come al solito io può essere che mi sbagli, e allora abbiamo chiamato Ugo Arrigo, il professor Ugo Arrigo, che insegna scienza delle finanze e finanza pubblica all'Università Bicocca di Milano, ma da anni, lo sapete, l'abbiamo invitato più volte, ha un pallino, diciamo così, è iperspecializzato anche in economia dei trasporti, ha dato persino una mano al tanto criticato e messo da parte Cottarelli per la parte che è relativa esattamente ai sussidi alle imprese e credo anche a quelle ferroviarie, e quindi grazie al professor Ugo Arrigo per essere qui con noi oggi pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie. Allora, innanzitutto ci fa capire un po', secondo lei è vero, c'è un rischio vero di doverlo salvare pubblicamente in TV, conti alla mano, che lei guarda più attentamente di me? Ma dunque, intanto qui bisogna dire che è un caso molto diverso, ad esempio, rispetto all'Italia. All'Italia è un'azienda che si è trovata in difficoltà per ragioni di mercato, per ragioni di concorrenza, quindi ci sono le compagnie low cost che riescono a fare il trasporto aereo a costi più contenuti rispetto all'Italia, l'Italia opera sugli stessi segmenti di mercato e quindi si è trovata in difficoltà, e dopodiché lo Stato in diverse occasioni ha dato una mano, è intervenuto, insomma l'abbiamo criticato per questo tipo di intervento. Qui però è un caso diverso, quindi non ci sono compagnie low cost di trasporto ferroviario, c'è un concorrente giovane che è nato pochi anni fa, che è operativo da due anni e mezzo, che è il nuovo trasporto viaggiatori col treno Italo, e poi c'è il vecchio ex monopolista pubblico che è Ferrovie dello Stato, Trenitalia, eccetera, eccetera. E qui il problema è da un lato di capire se vi sono stati errori gestionali di NTV o se il problema è un problema essenzialmente di regole del mercato, di regolazione del mercato e di azione pubblica. Quindi che cosa fa lo Stato esattamente? Fa l'arbitro del mercato, fa il giocatore in campo, è neutro rispetto all'azienda che possiede, cioè Trenitalia, Ferrovie, oppure invece dà una mano eccessiva all'azienda da esso posseduta? E questi temi si intrecciano. Intanto bisogna secondo me ricordare gli aspetti positivi dell'arrivo di Italo, e quindi noi ci siamo ritrovati a essere all'avanguardia in Europa, e questo non succede quasi mai nel caso italiano. Siamo all'avanguardia in una liberalizzazione, sarà pure una liberalizzazione piccola, parziale, però riguarda un mercato a lungo interprotetto, interregolamentato, che è quello ferroviario, in questo segmento molto particolare dell'alta velocità, abbiamo introdotto la concorrenza, non solo la possibilità della concorrenza, ma anche effettivamente la concorrenza. La e gli effetti si sono visti, perché le tariffe poi, per via di farsi concorrenza tra loro due, sono scese. Le tariffe sono molto scese, hanno fatto entrambi, hanno fatto grossa concorrenza al trasporto aereo, tanto è vero che anche un operatore low cost efficiente come Ryanair ha tagliato molti voli da Orio al Serio a Ciampino, perché l'alta velocità Milano-Roma sostanzialmente rende superfluo persino l'aereo low cost, non solo l'aereo tradizionale. Quindi voglio dire, l'effetto sul mercato è stato un effetto molto efficace, con un aumento di passeggeri notevole, e tutti i passeggeri che il nuovo trasporto di viaggiatori ha preso a bordo sui suoi treni in realtà non sono passeggeri che ha sottratto, che ha tolto a Trenitalia, ma anzi, riducendo le tariffe, anche Trenitalia ha aumentato sui passeggeri sull'alta velocità e ha aumentato sui passeggeri totali nel 2013, cosa che non avveniva da 6-7 anni. Cioè, noi eravamo negli ultimi 6-7 anni i passeggeri, i viaggiatori dell'unico operatore nazionale Trenitalia erano in continua diminuzione, nonostante l'incremento positivo. Quindi la concorrenza fa bene a tutti, al cliente, a loro stessi. Assolutamente, e il tassello che manca è la redditività dell'azienda, quindi la profittabilità. Perché da un punto di vista industriale operativo i treni funzionano, sono molto belli, molto funzionali, molto comodi, e il consumatore ha bisogno di scegliere, quindi questo è un qualcosa di molto positivo. Che cosa manca? Qual è il tassello che manca? La redditività. Ma intanto bisogna ricordare che la voce di costo più importante di nuovo trasporto viaggiatori è la tariffa di accesso alla rete ferroviaria pubblica, quindi questo è il principale sborso. E questa tariffa di accesso è una tariffa che non è gestibile, che non è in qualche modo oggetto della gestione di manager di nuovo trasporto viaggiatori, perché la definisce... È un costo fisso incomprimibile, insomma. È assolutamente incomprimibile. Se il nuovo trasporto viaggiatori decide di mandare un treno, paga X euro al chilometro sulla linea nuova, è una tariffa, adesso non me la ricordo con precisione, ma tra 12 e 13 euro per treno al chilometro attualmente, fino a settembre dell'anno scorso era addirittura vicino ai 15 euro per treno al chilometro. Sì, stiamo parlando di una media che è stata intorno ai 120 milioni di euro l'anno, insomma, più o meno di sborso per l'accesso all'infrastruttura. È la voce più consistente dell'azienda, quindi ha una tariffa, un onere che il nuovo trasporto viaggiatori paga a Rete Ferroviaria Italiana per l'uso della linea, correttamente. Però bisogna anche dire che Rete Ferroviaria Italiana poi fa parte dello stesso gruppo di Trenitalia, cioè il concorrente operatore dei treni. Io colgo l'occasione per ricordare che un po' di anni fa ho provato a suggerire al governo Prodi nel 96-97 una riforma tecceriana delle ferrovie, che prevedeva uno spezzatino ferroviario e prevedeva sostanzialmente di separare la rete da diverse compagnie che avrebbero esercitato il servizio, una per il trasporto a passeggeri a lunga distanza, una per regionale, una per le merci. Ovviamente questa cosa qui forse era un pochino eccessivo, pensare che andasse in porto senza problemi, attuata da un governo che era Rifondazione Comunista dentro. Infatti fu una riforma che durò circa una quindicina di giorni all'inizio del 97 devo dire che io sono forse l'unico italiano a essere riuscito, avendo curato una direttiva Prodi su questo tema, ad ottenere uno sciopero dei ferrovieri, che sostanzialmente in una domenica di febbraio del 97 non ci fu nessun treno che circolò sulla rete ferroviaria italiana. Per colpa sua! Per colpa mia, assolutamente, e questo mi ha fatto ricordare ex post quella famosa massima di Giulio Andreotti, perché nei manicomi ci sono due tipi di parti, esatto, quelli che credono a Napoleone e quelli che pensano che le ferrovie e le poste siano riformabili. Però qualche parte di riforma sulle poste, forse più ancora che sulle ferrovie, ma anche un po' sulle ferrovie sono state fatte. Allora, però io adesso, nell'interrompere, dopo che lei ha ricordato a chi ci ascolta quanto inficiato da conflitto di interessi sia lo Stato, che da una parte fa il regolatore, ha ritardato la nascita di un'autorità terza indipendente, dall'altra fa il concorrente, quindi gioca nel campo dell'offerta dei servizi, la domanda che io le faccio, alla risposta dopo i 60 secondi di Stradi, però è: lei è in grado di fare un conto disaggregato sui bilanci e i risultati ottenuti da NTV per capire se davvero il più del deficit realizzato si deve agli oneri impropri da regole unfair, non equilibrate, non giuste, nella concorrenza ritardata dallo Stato, rispetto invece agli obiettivi di remuneratività rispetto alle tariffe, che sono scese più di quanto loro dichiarassero e immaginassero, l'offerta di servizi messa in campo, perché anche quella ti fa poi è una voce fondamentale della quota di mercato che puoi ambire a portare a casa rispetto alla crescita molto forte che c'è stata di tratte e non tanto di treni per il momento, ma di tratte coperte dal concorrente. Hai costi fissi elevati, a cominciare da quelli della dirigenza, dagli amministrativi, dagli impianti fissi, cioè si riesce a fare un conto per capire quanto si deve alla colpa dello Stato e in quanto hanno sbagliato anche i privati, verso i quali non è che noi dobbiamo essere teneri solo perché sono privati. Noi ci occupiamo del caso di NTV, la società privata concorrente di Trenitalia, nei guai dal punto di vista delle perdite, della necessità di ricapitalizzazione. I soci privati non sono molto d'accordo, hanno già ritrattato il debito con le banche. Ricordo che Banca Intesa, quella che ha fatto l'operazione di sistema di NTV fin dall'inizio, la stessa Banca Intesa che ha fatto come operazione di sistema Telco in Telecom Italia e quelle di Alitalia, non sono operazioni che sono andate molto bene. Stiamo tentando di capire con il professor Ugo Arrigo della Bicocca di Milano quanto delle perdite dichiarate nei bilanci in questi anni da NTV si può davvero ascrivere agli ostacoli che ci sono stati, sono enormi, posti in campo dallo Stato come concorrente oltre che come regolatore, quindi in conflitto di interesse dichiarato, e che provvede lo Stato ogni anno da miliardi di trasferimenti, miliardi che io sono per tagliare, come proponeva Giavazzi. Ma quanto si deve all'improprio ostacolo dello Stato e quanto si deve al fatto che i privati magari non hanno saputo fare bene il loro mestiere? Lei che ne dice, professor Arrigo? Ma dunque, intanto bisogna ricordare che la concorrenza tra i due operatori ha fatto ridurre le tariffe, si stima in almeno un 30%, e oggi, o almeno lo scorso anno, per il quale abbiamo i dati, i proventi medi per passeggero chilometro sulle linee ad alta velocità sono sostanzialmente si sono ridotti quasi ai livelli dei normali treni ordinari non ad alta velocità. Quindi tutta la maggior qualità, la maggior velocità, il comfort, eccetera, di fatto viene ceduto ai viaggiatori senza onere aggiuntivo rispetto a un treno intercity che viaggia sulle linee normali. Questo qui però si rivela incompatibile con la tariffa d'uso della rete ad alta velocità, che è estremamente elevata. Quindi lei dice anche bisognerebbe abbassare quello che lo Stato chiede a NTV per avere accesso alle infrastrutture. Esattamente, soprattutto è una tariffa che non si capisce bene quali costi copra. Io qualche anno fa, due o tre anni fa, ho fatto una ricerca proprio per noi, trasporto viaggiatori, sulle tariffe delle reti ferroviarie negli altri paesi europei. Sì. Scoprendo che sono tutte più o meno alte, quella italiana è un po' più bassa di quella francese media e un po' più alta di quella tedesca, di quella spagnola. Però sostanzialmente perché questa tariffa delle reti ad alta velocità sono più alte rispetto alle linee normali? Non perché costi di più, particolarmente di più esercitare queste linee dal punto di vista tecnico operativo, quanto per il fatto che si recupera costi di investimento. Quindi la sovratariffa rispetto alla rete normale copre costi di investimento che il gestore di rete ha sostenuto. Però nel caso italiano i costi di investimento sono stati coperti per quasi il 90% dallo Stato. Sì. E quindi rimane a carico della rete ferroviaria italiana un costo residuale. Grosso modo, su 32 miliardi di costo della rete ad alta velocità, 4 resterebbero a carico di rete ferroviaria italiana e 28 sarebbero stati coperti dallo Stato. Però allora com'è possibile che 12 euro e mezzo di tariffe per primo chilometro siano giustificati da soli 4 miliardi a carico di rete ferroviaria italiana, i costi residuali dell'alta velocità? Queste cose qui dovrebbero stare in un documento del CIPE che è stato approvato molti anni fa, e questi calcoli però pare che gli allegati e questi calcoli non sono più disponibili. Quindi in realtà la tariffa chiesta per l'infrastruttura NTV è totalmente opaca nel meccanismo che per anni è rimasto quello rispetto alla riduzione di quello che è l'ammortamento, che in larga misura è già avvenuto nel tempo dell'infrastruttura. È così, è totalmente opaca questa cosa. Ad oggi noi non sappiamo perché sia stata fissata in quell'ammontare. Ma l'autorità quali sono i tempi in cui l'autorità nuova prende in mano questa questione e dà risposte concrete? E questa è una domanda molto interessante. Bisogna dire che l'arbitro del gioco è stato chiamato ad arbitrare la partita molto dopo che la partita era iniziata, e ad oggi l'arbitro non sembra ancora pienamente a centrocampo in grado di arbitrare la partita. Mi sembra un po' in panchina ancora, un calato. Ovviamente queste autorità hanno dei tempi tecnici di attivazione, di entrata in funzione, regime, eccetera, perché l'abbiamo visto già in passato. Però bisogna dire che l'Italia è sempre dotato di modelli poco efficienti di regolazione, preferendo ad esempio molteplici autorità settoriali piccoline che hanno richiesto tempo per insediarsi, per diventare operative, eccetera, quando ad esempio quindi, in Germania tutte le reti vengono regolate da un'unica autorità. Ecco, allora siamo ancora lontani, per così dire. Adesso vedremo, perché oggi Lupi nelle sue interviste ha dato ragione a Trenitalia su tutta la linea, a NTV, scusatemi, perdonatemi, anzi ha detto che lui si è battuto anche contro il taglio dei sussidi elettrici. Io resto favorevole al taglio dei sussidi elettrici. Il professor Arrigo, anche i sussidi elettrici hanno ragione. Se abbiamo tempo si può dire qualcosa, perché è una classica storia italiana molto complicata. Nel 62-63 le ferrovie dello Stato e di Stato autonomo possedivano centrali idroelettriche con cui fabbricavano la corrente che gli serviva per far circolare i treni, che furono conferite all'Enel, appunto, come ricorda. Queste centrali, che erano già pubbliche in quanto delle ferrovie, sono state nazionalizzate in capo ad Enel, senza però che le ferrovie venissero ritagliate, no? Lo so, ma appunto, ma che c'entra però dare l'incentivo a NTV con quella storia? Niente, va bene, il tempo è finito. Massimo da Treviso, che era in linea e diceva, questo mi dicono, la sintesi della telefonata, il problema del piano industriale di NTV è che pensavano di guadagnare molto di più, l'abbiamo toccato.